C'è poi un campanile che si vede, ma che campanile non è? Lo vediamo dall'alto, ma scopro che è a pochi passi da noi, su quella stessa via, Corrado IV di Svevia, da cui siamo partiti. E il campanile è noto a tutti come torre dell'orologio. La torre dell'orologio non fu edificata lì dove oggi si trova. Incredibilmente, nel 1300, la torre dell'orologio era situata altrove, lungo una strada in salita che conduceva alla chiesa Santa Maria Vetere. Quando l'invasione degli Ungheri nel 1350 la distrusse, il duca Bertrando del Balzo commissionò il recupero dell'edificio. Fu poi un altro del Balzo, Francesco II, a volere lo spostamento della torre su via Corrado IV. Volle operare per prestigio personale, perché via Corrado IV era considerata un punto dominante della città, e anche per pubblica utilità, perché lo scandire delle ore era comodo ai tanti frequentatori di una taverna delle poste che sorgeva lì accanto. I del Balzo volevano effettivamente che la torre assomigliasse a un campanile, tanto da dotarla di due campane. Ma le campane non dovevano chiamare fedeli a raccolta, bensì ricordare a tutti, a chi crede e a chi no, che il tempo passa, ti scivola via dalle giornate. Così due campane tutto il giorno scandivano il tempo a rintocchi. Una campana a contare le ore e l'altra i quarti d'ora. A farne però torre dell'orologio era anche, o forse soprattutto, la meridiana sulla facciata, ancora oggi visibile, con la sua ombra mobile che guardava e guarda ancora la misteriosa chiesa Mater Grazie. Con l'occasione scopro di più di questa chiesetta, che sorge dove un tempo c'era la cappella privata di una famiglia dal nome che non lascia dubbi sul sangue blu, i De Maioribus. Pare che la chiesetta fosse dedicata a San Giovanni Battista e che si ergesse di fianco all'abitazione della famiglia. A un certo punto, casa e cappella andarono in rovina e furono demolite, allorché i beni dei De Maioribus non trovarono più nulla, né eredi né acquirenti. Era il XV secolo. Annina mi racconta che la cappella custodiva un'immagine della Madonna delle Grazie dipinta su un muro e che l'effigie sacra, sommersa dai calcinacci dell'edificio in rovina, fosse stata presto dimenticata. Fu nel 1622 che l'integerrima e giovanissima Dorotea Vangella, fanciulla casta e immacolata, dotata di tutti i requisiti canonici alle apparizioni celesti, accolse in sogno proprio quella Madonna delle Grazie che le apparve e la supplicò di non dimenticare il luogo rituale. La Vergine raccontò il suo dolore a Dorotea, che non si dette pace fino a che, demolita la precedente chiesa, non ne fu eretta una nuova, che è l'attuale cappella. Al centro della deliziosa navata fu collocato un blocco di tufo, residuo della demolizione. Era l'effigie santa, finalmente recuperata, della Madonna delle Grazie.